la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Non mi interessa essere un artista, sono un testimone della mia epoca. Questa è forse la frase che meglio rappresenta Gianni Barengo Gardin, il nostro ospite, il fotografo che meglio di altri ha bloccato in uno scatto momenti di storia italiana. Gardin inizia a fare foto quasi per caso nel 54. Quello che gli interessa, dirà, sono le persone, raccontare il loro dolore, la loro gioia, fotografare appunto uno spaccato di vita. Perché io in archivio ho 1.500.000 foto, quindi è un percorso un po' lungo e abbondante, ma il criterio, le storie più interessanti e le storie che hanno contato di più nella mia attività di fotografo. La più importante forse è quella di Morire di classe, l'indagine che ho fatto con la Carla Cerati sui manicomi nel 68 per Franco Basaglia, che era un'indagine per l'approvazione della legge 180, e quindi è stato un libro di Einaudi ed era, abbiamo fotografato in Firenze, a Parma, a Gorizia, in vari altri manicomi, non tanto la malattia quanto le condizioni in cui erano tenuti i malati. Quindi è stato un libro di denuncia. E avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Negli anni 60 Gardin lavora a Milano come fotoreporter per le più grandi testate nazionali e internazionali. Nel 57 a Milano apre il primo supermercato, le bici sono ancora molte in giro, ma le macchine cominciano ad avere sempre più spazio. Le fabbriche accolgono lavoratori del sud. Milano, insomma, si prepara al grande boom economico. Scusa lei. Come te ne no? Sempre parte facete, può darsi che anche cambiare una qualche volta, eh. Ma come te ne Ma no, mi parte facete come te la appetti, la mi piace, ma te capirete. È un ti, è tu, è tri. Sì, vada quell'là il mangianopaste fasè, quell'là il gaidanè per mangiare il pulastro tutti i dì. Che là le fortuna. Ma che fortuna è fortuna? E se industria, dite se è bella e buona, ma anche per sposarsi, se te sei ricorda, ti ho dovuto insistere io. Caro il mio uomini della vita, se poi no indormenta salumi. Insti di miracoli economici, te sei restato con l'idea di 30 anni fa. Tutti si sviluppano. Guarda quanti commerci fioriscano intorno a noi. Sapro darti il mio cuore come credi, e tu sai, bimba mia, che impazzivo è in questa città, fatta di nebbia, bici e gente che quasi fa fatica a stare dietro al benessere, che Gardin cresce professionalmente. È il 1962, Adriano Celentano canta su un piccolo palco quasi improvvisato davanti al Duomo, circondato da ragazzi che ballano col cappotto, il cappello e la sciarpa. Nonostante i successi, Gardin resta coi piedi a terra, sicuro della sua missione, quella di raccontare attimi di vita. Potrebbe scegliere di andare, il giovane fotografo, amato anche dalla Magnum, ma resta in Italia, a Milano, città che lo ha adottato e che lui ancora oggi ama, nonostante tutto. Io sono genovese di nascita, veneziano d'adozione e dal 64 circa abito a Milano. Allora, in quegli anni dovevo scegliere tra Parigi, dove avevo vissuto 2-3 anni, e Milano, e ho scelto Milano perché Milano era una città bella, interessante, aveva un avvenire, e quindi ho scelto Milano invece di Parigi, e devo dire che non me ne pento. A Milano ci sto molto bene, è una città quasi europea, ecco. Lo penso ancora, anche se Sì, è un po' cambiata in questi anni. C'è un certo degrado, ma dovuto ai cittadini, non alla città. Non è colpa della città, è colpa di chi ci abita. Buttano tutto per terra, cicche, scatolette. Non rispettano i passaggi pedonali. È un degrado che tutte le città, le grandi città, stanno attraversando, ma mi sembra che Milano sia un po' troppo. L is for the way you look at me. Gardin vive in questa atmosfera forte, piena di slanci e possibilità. Per lui avere significa impegnarsi, crescere significa confrontarsi con i migliori. Gardin fotografa tutto quello che per lui necessita essere raccontato, l'arte, il paesaggio, gli uomini, con una cura e un amore che in breve lo faranno divenire un fotografo molto richiesto. Io ci tengo a non passare per artista, perché non mi sento artista, penso di non essere un artista. Faccio delle fotografie che sono di documentazione, io mi considero un testimone del mio tempo, del nostro tempo, di documentare cose che vanno scomparendo o che sono scomparse, che ritrovo, e cose che scompariranno in un prossimo futuro, cose e gente anche. In particolare, secondo lei, in questo momento, tra le cose più scomparse, cosa c'è? Ma l'artigianato, senz'altro. Non esistono quasi più calzolai, orologiai, gente che faceva piccole cose d'artigianato. Esiste grande industria, si figuri che leggevo l'altro giorno su 24 ore che in Italia c'è bisogno di 100.000 falegnami, 50.000 artigianato e 50.000 industriale. Non trovano un falegname, perché i giovani non si applicano più, vogliono laurearsi tutti, diventano ingegneri, dottori e poi non trovano lavoro. Mentre l'artigianato è esperienza, bisogna fare anni di apprendistato con un maestro, con uno che sappia fare l'artigiano, e non c'è più questa volontà. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ma io da ragazzo, devo dire, volevo fare il falegname, perché mi piace molto il legno, lavorare il legno è molto bello, è una materia molto viva. E poi combinazione, ho fatto 6 anni il fotoamatore. E visto che questa passione per la fotografia diventava sempre più importante, dopo 6 anni di fotomatore ho deciso di fare il fotografo professionista. È merito di una persona molto conosciuta nel campo fotografico, che si chiamava Romeo Martinez, che era il direttore di una grande rivista svizzera di fotografia che si chiamava Camera, che era un uomo di grande cultura, grande competenza. E una volta, quando ero ancora fotoamatore a Venezia, una sera mi ha detto: ma perché non diventi professionista? E io allora ero in dubbio, perché avevo un negozio dei miei che rendeva molto bene, e quindi la fotografia sarebbe stato un salto nel buio. E io ero titubante e lui mi ha detto: fa il salto che ce la farai senz'altro. E fortunatamente ce l'ho fatta. Così Gianni Barengo Gardin, classe 1930, professione fotoreporter. Una passione quella di Gardin che lo porterà a grandi successi internazionali, nonostante gli esordi umili. Oltre 1 milione di foto in archivio, una fama che ancora oggi resta intatta, un amore per la fotografia che tuttora resta vivo, forte e che lo porta ancora oggi a fotografare con la pellicola. Mio padre a 17 anni mi ha detto: o studi e ti mantengo, se non vuoi studiare vai a lavorare, e sono andato a lavorare in Francia, ho fatto l'emigrante in Francia, in Svizzera, in Inghilterra e poi sono tornato in Italia. E cosa faceva in Francia quando emigrava? In Francia facevo il cameriere, perché non sapevo fare altro, il cameriere e poi ho lavorato in una reception di un grande albergo e ho incominciato a fotografare in Francia e in Svizzera. Ma la fotografia oggi, i giovani vogliono fare gli artisti, la foto di documentazione è pagata, ma di reportage è pagata malissimo dai giornali, e quindi i giovani si buttano sulla cosiddetta foto d'arte, perché ci sono i galleristi che, non vendendo più quadri, cercano di vendere fotografie, e quindi è un altro genere di fotografia, la fotografia di reportage dei grandi reporter della Magnum praticamente è molto limitata, se ne fa molto poca, proprio perché i giornali non la pagano e non l'utilizzano. Lo vedo la fine della fotografia, poi il digitale dà una mano e quindi andiamo sempre peggio. Le nuove tecnologie rovinano la mentalità dei fotografi. Una volta c'è una pubblicità a Milano che dice, grandi cartelloni, diceva: non pensare, scatta. Io ai ragazzi gli dico: prima pensa e poi casomai scatti, non è necessario scattare sempre. E quindi il digitale, tutti comprano una macchina il giovedì, scattano delle foto, naturalmente che non sono loro che le fanno le foto, è la macchina, perché pensa a tutta la macchina, e il giorno dopo dicono: sono un fotografo. No, sono solo della gente che scatta fotografie. Per diventare fotografo ci vuole anni di applicazione, di studio, dei grandi maestri, non c'è più una difficoltà tecnica come una volta, ma c'è la difficoltà di saper vedere. E quindi, come un fotografo è come un dottore, un ingegnere, un medico, deve studiare anni, applicarsi e poi può dire di essere un fotografo. Sono i risultati di chi vede le fotografie che ha fatto che lo giudica. E purtroppo oggi ci sono tante fotografie che non valgono granché. Pippo, posteggio! Buongiorno, ecco pronto il posteggio. Anche lui a lavorare? Dobbiamo mangiare. Gardin nel 2012 riceve l'Ambrogino d'Oro per i ritratti che fa di Milano e della sua gente, una città, dice, che ha amato e che lo ha amato. Una città, Milano, che Gardin ha saputo raccontare con una sensibilità profonda, degna in fondo del suo curriculum, fatto di una lunga e dura gavetta. Un passato che Gardin non dimentica e che lo fa andare lieve per il mondo, scrollandosi così di dosso appellativi come maestro. Marea, marea. quando ero a Venezia, maestro, si chiamano tutti gli artigiani, si chiama il gondoliere, si chiama il giornalaio, tutti quelli che fanno un lavoro umile, li chiamano ciò maestro. E così sono abituato a essere chiamato maestro, però nel senso non di grande maestro, ma piccolo maestro, perché il maestro si chiamano gli artisti quando sono un po' rincoglioniti, che hanno una certa età. No, mi darebbe fastidio se non fossi veneziano di adozione. E allora la chiamo Beringo Gerber. Ecco, mi chiami Gianni, che va meglio di tutto. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo, poi la lascio, che l'ho già tenuta a lungo. Lei ha citato la Magnum, ecco, ci sono più queste grandi agenzie come un tempo? Ma le agenzie faticano molto a vivere, perché ci sono quelle internazionali che vendono le fotografie a pochissimo. Anche la Magnum si è adattata, non fa più i reportage interessanti che faceva una volta. Una volta decidevano di fare un reportage, non so, su Bucarest. Mandavano un fotografo 3 mesi a Bucarest e quello faceva un lavoro serio. Oggi anche alla Magnum dicono a un giovane: vai 3 giorni a Bucarest, perché di più non possiamo pagare, e torna col reportage. E logicamente quello fa quello che può e s'arrangia con delle foto abbastanza banali. E questo è il dramma della fotografia di reportage. È triste, sì, ma fortunatamente siamo ancora un gruppo di fotografi di nicchia, diciamo, che continuano a fare un certo tipo di lavoro. E quindi, come gli ho detto prima, in Italia c'è Saglietti, c'è Cito, Shanna, ci sono tanti altri che continuiamo ostinatamente a fare quello che si faceva 20 anni fa, 30 anni fa. Non so se è conto di anni o se è fantasia, che a luz da candela umia pra gente contar. Che cosa ha trasformato un ragazzo con la passione della fotografia in uno dei più grandi fotografi al mondo? Forse la modestia di guardare sempre i migliori e imparare dall'esperienza. Ho avuto i grandi maestri del passato, che sono i fotografi di Life, Dorothea Lange, Gene Smith, Cartier-Bresson, e i fotografi più recenti come Kudelka e Salgado, che sono dei miei maestri e anche, oltre che dei grandi maestri, degli amici. La prima volta termina qui. Grazie per l'attenzione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre di domenica verso le 13. Potete riascoltarci in podcast e se volete potete scriverci a laprimavolta@radio24.it. Un ringraziamento speciale questa settimana va ad Adriana Fracchia, mia amica e collega realizzatrice di questa bella intervista a Gardin. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. La prima volta.